sì, non porterebbero avanti adeguatamente il processo, che pubblici ministeri hanno dimostrato tramite le perizie che il fratello era già stato ricoverato 17 volte all'ospedale precedentemente per percosse, lesioni e fratture subite dai suoi amici spacciatori. E la famosa frattura di cui capito, ci sarà una differenza tra uno spacciatore che picchia e le istituzioni, il corpo dello Stato, dei... è quello che dico io fin dall'inizio, poiché tre poveri agenti di custodia sono massacrati da 4 anni, perché dappertutto è stato detto che da loro che è stato massacrato di botte, perché non è così, e il processo sta dimostrando il rovescio, cioè che è morto, come ho detto fin dall'inizio, perché i medici, lui era debole e aveva una serie di patologie, non sapeva gestirsi, ha fatto lo sciopero della fame e invece di curarlo lo hanno lasciato morire, pigliando per buono la volontà di una persona che non sapeva gestirsi. Cioè non ha subito percosse secondo lei in carcere? No, secondo me, basta leggere le sei, non solo le perizie iniziali del barello dell'accusa, ma quelle dei sei super periti che è stata depositata 20 giorni fa, arrivano a queste conclusioni. Cioè, non c'è nessunissima relazione fra la morte ed eventuali, perché nessuno l'ha dimostrato, percosse. O se su questo poi per l'ennesima volta in Italia si costruisce una carriera politica e la sorella diventa capolista di un partito, sono 2 anni che lo dico, era evidente che finiva così. Cioè secondo lei Ilaria Cucchi sta sfruttando la morte del fratello? Cioè, scusi, mi sembra talmente evidente che la carriera è una tragedia, ma è morto, poi, ma è morto, continuo a dire, ma è una tragedia, è morto suo fratello. Infatti suo fratello è una vittima, è una persona malata che ha tentato più volte di recuperarsi, che aveva una vita difficile da tossicodipendente, da spacciatore, è una vittima che non è stata curata. Da questo che la provincia di Roma che volesse intitolare le scuole, dandolo come esempio ai giovani, non ci sto, non è, non per me è una cosa inammissibile. È la storia di Carlo Giuliani. Carlo Giuliani è stato una vittima, certo è morto, sì, poveretto, sì, durante gli scontri a Genova. Carlo Giuliani è un eroe a cui intitolare le sale del Parlamento? No, perché quando è morto stava per ammazzare 3 carabinieri. Capito, ma secondo lei quindi Stefano Cucchi non è morto perché durante il suo arresto... Se i giornalisti, mi scusa, leggessero le carte, sì, se lei legge la perizia, della, non della difesa, dell'accusa... E quindi i lividi... Accusa, i lividi dei... La perizia dei, sì, 6 super periti a cui la Corte si è rivolta perché con le rimostranze dei familiari della parte civile ha fatto fare un'altra super perizia a 6 dei maggiori e importanti medici italiani... È stata depositata 20 giorni fa, ne hanno parlato tutti i giornali italiani. Sì. Ecco il problema. Okay. Domandiamoci anche queste 3 povere famiglie, questi 3 poveri cristi, loro che pagano 1.200 euro al mese, il calvario che stanno vivendo su un'accusa costruita sul nulla.